La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Ora sappiamo che molti uomini e donne divergono per interessi, abilità e desideri. Ma è un problema che va risolto? Tutte le analisi empiriche delle differenze tra i sessi elaborano i dati per darci un'idea del quadro d'insieme. Queste statistiche non potranno mai descrivere i singoli individui o dirci qualcosa sul modo in cui dovrebbero vivere la propria vita. Sia i profili tipicamente maschili che quelli tipicamente femminili, e tutte le gradazioni tra i due, hanno virtù che li rendono raccomandabili. Nessuno è migliore o peggiore o più prezioso per la società. Secondo me, l'idea che le donne dovessero emulare gli uomini era più convincente quando era un modo per conquistare l'accesso a risorse e opportunità ritenute off-limits. Ora però, che le ragazze e le donne vanno così bene negli studi e che i diritti delle donne sono tutelati, almeno in Europa e nel Nord America, ci dovrebbe essere un modo di considerare le differenze tra i sessi con maggiore obiettività e magari con ottimismo. E abbiamo sentito Il paradosso dei sessi di Susan Pinker, uscito adesso per Enao di Stile Libero. Abbiamo con noi varie ospiti per parlare se appunto le donne sono ostacolate nella loro carriera proprio da un ormone che impedisce loro, bene o male, di fare carriera, perché il loro cervello è talmente tanto poliedrico che scelgono di fare carriera, di fare le mamme, di fare shopping, di specializzarsi in letture, insomma. Per parlare di questo abbiamo con noi oggi Giuliana Lupi, traduttrice del libro appunto Il paradosso dei sessi, Marina Piazza, sociologa esperta in tematiche legate alla condizione femminile nella società moderna, Franca Fossati, giornalista e curatrice della rubrica She su Europa, e poi Roberta Cocco, responsabile dell'associazione Futuro al Femminile. Iniziamo subito con Roberta Cocco e le chiedo, è vero che le donne sono impedite nella carriera proprio da questo ormone femminile, oppure non è così? Più che altro le donne invece sono fermate dal far carriera da uno strapotere maschile? Buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, io di questo ormone non so molto, conosco il libro Il paradosso dei sessi e devo dire l'ho trovato particolarmente interessante e diciamo pone il problema sotto un'angolatura diversa. Non ho idea se ci sia una base chimica a tutto questo. Certamente in Italia in particolare le donne purtroppo sono ancora molto indietro nel raggiungere posizioni apicali e quindi quella famosa parità a cui auspichiamo. Io credo che ci siano dei problemi di base, uno fra tutti il fatto che numericamente le donne che lavorano sono inferiori agli uomini. Io sono una manager di Microsoft e proprio grazie a Futuro al Femminile ho cercato di portare avanti la tematica della tecnologia proprio a favore delle pari opportunità. Questo è il leitmotiv per il quale noi portiamo avanti molti progetti legati alla nostra iniziativa. Quindi la tecnologia per il telelavoro principalmente, per esempio il telelavoro può essere uno strumento per le donne per poter lavorare ma anche stare a casa, questo ce lo consente oggi internet, eppure poco applicato, perché? Beh, più che il telelavoro noi parliamo di possibilità attraverso la tecnologia di svolgere la propria funzione anche non necessariamente dall'ufficio, quindi spesso il telelavoro viene associato ad una sorta di allontanamento dalla donna al posto del lavoro e quindi qualche volta anche soffrendo di allontanamento proprio da quelli che sono il centro delle possibilità per le donne poi di avere opportunità di fare carriera. Noi riteniamo che la tecnologia possa offrire la possibilità, potendosi connettere da casa, ma da qualsiasi posto ci si trovi, al proprio ufficio, alla propria mail, quindi alla propria posta elettronica, a tutti i documenti che servono, oppure fare videoconferenze, ma qualunque funzione attualmente attraverso la tecnologia è disponibile indipendentemente da dove ci si trovi. Questo è un fattore straordinario per la conciliazione, perché molto spesso le donne sono costrette a scegliere tra il lavoro e una vita personale, quindi la propria famiglia, proprio perché non riescono a conciliare i tempi. uno dei cardini su cui noi fondiamo la nostra, i temi di futuro al femminile è proprio questo, no? La possibilità attraverso i dispositivi mobili, non lo so, lo smartphone piuttosto che il PC portatile, la linea DSL, quindi una linea dati potente, di non dover più scegliere, quindi questo è il fulcro del nostro obiettivo. Quindi un lavoro appunto lontano dall'ufficio, dove però non c'è il capo ufficio che possa controllare quello che si fa, e questo forse un pochino, no, la mentalità da cambiare in Italia, mi sembra che ci sia molto paura quando poi non si è fisicamente sul posto di lavoro. Noi chiediamo a Roberta Cocco comunque di aspettare, perché sappiamo che è molto impegnata, e di continuare a partecipare alla discussione. Giuliana Lupi, traduttrice del libro appunto Il paradosso dei sessi. Che cosa ha scoperto lei traducendo questo libro che non sapeva? Buongiorno intanto. Buongiorno. Io devo dire che mi sono accostata a questo libro con un po' di prevenzione, avendo letto le critiche che erano uscite nel momento in cui il libro è stato pubblicato in Nord America. E in realtà ho scoperto che non era assolutamente vero, perché veniva presentato come un libro contro le donne, un libro che in un certo senso giustifica un determinismo biologico per cui le donne stanno bene a casa ad accudire i figli e magari anche i genitori anziani e quant'altro. In realtà io in questo libro ho trovato un ritratto delle donne così come effettivamente sono, e un libro che mi ha confermato anche nelle mie scelte, nel senso che io faccio parte di questa categoria di donne che hanno scelto, non che sono state costrette a dedicare gran parte o una buona parte della loro vita ai figli e alla famiglia, ma donne che hanno scelto di conciliare comunque un lavoro gratificante con la possibilità di occuparsi in prima persona, di crescere i propri figli, di occuparsi di loro in prima persona, di essere presente per loro e per altre persone care nel momento in cui potevano aver bisogno di me o comunque di una persona che stesse loro vicino. Insomma, sì, mi dica. No, e quindi lei a un certo punto ha riscontrato delle verità in questo libro, però nella sua esperienza personale, quando lei si è trovata di fronte a delle scelte nella vita tra la carriera e la vita privata, che cosa ha scelto? Io ho scelto principalmente la vita privata. Per quale motivo? Ma io penso che fosse soprattutto per un... Non lo so, io sono cresciuta in una famiglia in cui mia madre non lavorava, ci ha seguito dedicandosi praticamente a me e ai miei fratelli totalmente, ma in un modo però che io non ho mai avuto la sensazione, anche quando ai miei tempi si parlava delle solite casalinghe frustrate, eccetera, non ho mai avuto quella sensazione, ho avuto la sensazione che il fatto di dedicarsi agli altri fosse qualcosa che veramente è di veramente appagante. E il ritrovarlo in questo libro, in cui mi viene spiegato che il fatto di aver seguito queste scelte, non è stato una dimostrazione di inadeguatezza mia e di tante altre donne che fanno questa scelta, ma proprio il fatto di aver avuto, diciamo, anche il coraggio, potendo, ovviamente si parla sempre di persone privilegiate che possono scegliere, questo sia ben chiaro, mi ha confermato in queste mie scelte, mi ha fatto capire che non era pavidità o inadeguatezza da parte mia, ma effettivamente un rispondere a quello che poteva essere anche un mio bisogno dettato in parte proprio anche dal modo in cui noi siamo fatte, che ci porta a non essere uguali agli uomini e a non desiderare le stesse cose che desiderano gli uomini. Quindi... Non essere soddisfatte soltanto da quello, ecco, che è un modello, quello maschile, che forse ci va stretto. Però lei poi un lavoro ce l'ha, perché poi fa la traduttrice, sì. Quindi ha scelto un lavoro a casa, quello che sì, poi ci teneva, ci diceva appunto Roberta Cocco, insomma, sì, che forse per le donne è più facile un lavoro dove non si è costretta a stare in ufficio, ecco. Sì, infatti è questo che io dicevo, tutte queste donne, leggendo il libro della Pinker, si vede che non si parla di donne che hanno scelto di fare le casalinghe, si parla spessissimo di donne affermate che sono arrivate anche all'apice della loro carriera, che però a un certo punto si sono rese conto che quel modello di lavoro proprio prettamente maschile, che richiede una presenza anche di facciata sul posto di lavoro, che richiede di essere disponibili 24 ore su 24, chiudendo la porta e dimenticando tutto quello che uno lascia dentro casa, non è un modello che ci... pur essendo un modello gratificante dal punto di vista economico o di prestigio, non è il modello che... per noi vincente. Che per molte donne è quello che effettivamente le appaga, le realizza. Allora, mi ricordo un film con Dolly Parton, se non erro, che era dalle 9 alle 5, orario continuato, no? Dove c'erano queste avvenenti segretarie che appunto dovevano timbrare questo cartellino un po' in modo angosciante. La quota rosa. Tremate, tremate, le streghe son tornate. Quando io ero, insomma, una ragazza, si andava a manifestare per l'8 marzo, si sta avvicinando la celebrazione del giorno di lotta per la parità dei diritti, e praticamente uno degli assiomi del femminismo era parità totale con l'altro sesso. Allora, io quello che mi domando, questo ormone è un ormone antifemminista? Ha più senso parlare di femminismo oggi? Che cosa vuol dire? Le donne non sono portate per far carriera fuori casa? Insomma, noi stesse siamo antifemministe dentro di noi. Lo voglio chiedere a Franca Fossati, autrice di un articolo, Ormoni, successo e carriera, appunto, sushi su Europa. Che cosa succede al femminismo allora? No, io in realtà in questo articolo volevo polemizzare con un titolo di un altro articolo di Repubblica che parlando di questo libro della Pinker eccetera, aveva intitolato L'ormone antifemminista. Allora, io non lo so quanto l'ormone incida sui nostri comportamenti. Sicuramente incide, immagino, abbiamo un apparato riproduttivo diverso dagli uomini, abbiamo un sistema ormonale diverso, non si capisce perché non dovremmo essere anche noi condizionati dai nostri ormoni come gli uomini dai loro. Dopodiché penso che ciascuno possa governare gli ormoni, gli uomini anche, perché spesso invece giustificano la loro aggressività con l'impossibilità di governare gli ormoni. Dopodiché, ammesso che l'ormone, o comunque ammesso che ci sia iscritto nel nostro modo di essere o nel modo di essere della maggioranza delle donne un atteggiamento diverso nei confronti della carriera, del successo, quello che io penso è che non necessariamente questo è antifemminista, anzi il contrario. Credo che il femminismo, proprio contro tutte le ideologie precedenti alla nascita del femminismo moderno, che avevano visto solo nella parità con gli uomini, prendendo quindi l'uomo come modello da raggiungere, ha rotto con questa idea dicendo no, noi siamo differenti, dobbiamo esprimere un differente punto di vista sulla realtà. La differenza femminile non è un disvalore come era stato considerato fino a poco tempo, pochissimo tempo fa, quando diciamo, nei gloriosi giorni in cui si bruciavano i reggiseni. Ecco, fino a pochissimo tempo fa la differenza femminile è un valore. Quello che io aggiungo, secondo me, dovrebbe essere un valore che andrebbe speso invece nella vita lavorativa e pubblica, perché non si capisce perché la vita lavorativa e pubblica deve essere fatta sul modello maschile, cioè come se gli ormoni degli uomini contino di più. No. Quindi, in realtà, noi dovremmo diventare sempre più capaci di spendere questa differenza per far cambiare l'organizzazione del lavoro e l'idea stessa forse di carriera. Allora, sentiamo Marina Piazza, sociologa esperta in tematiche legate alla condizione femminile nella società moderna. Franca Fossati ci ha dato un assist, si direbbe, in gergo calcistico. Possiamo sì far sì che noi donne, con il nostro modo di concepire il lavoro, a un certo punto indirizziamo anche la società maschile verso un nuovo modo di concepire il lavoro, come abbiamo sentito Roberta Cocco, con un lavoro fuori dall'ufficio, con degli orari un po' più flessibili? Beh, io sono assolutamente d'accordo con Franca Fossati, come dire, volevo proprio dire questo. In fondo le donne si sono confrontate, si sono dovute confrontare con un modello di lavoro che è stato esattamente ritagliato sul maschio adulto, che aveva le donne a casa, come dire, che facevano tutto il lavoro di cura e di riproduzione. Questo è un modello, come dire, che è legato al modello fordista, che dura da un secolo, che è storicizzato, che non ha più senso, perché oggi io credo che invece le donne rappresentano proprio il nuovo, perché, come dire, le donne rappresentano un doppio sapere, perché da una parte, come dire, sono saldamente attestate, soprattutto le ragazze giovani, anche se con qualche difficoltà nell'accesso, ma insomma nella loro interiorità, nella loro percezione sull'ovvietà di esserci dalle due parti. Ma la cosa che mi sembra interessante, come dire, è il fatto che cominciamo, come dire, a rovesciare, come dire, l'interrogazione. Non è dal modello che partiamo, per cui noi siamo sempre, come dire, marginalizzate, residuali, funambole, acrobate, conciliative, eccetera, eccetera, ma dal fatto, come dire, che un modello nuovo potrebbe essere proprio quello che, come dire, sani questa cesura tra la voglia di esserci, che le donne hanno, di esserci, di trasformare il mondo, e la voglia di prendersene cura. E questo è un modello totalmente nuovo. Io credo che le donne dovrebbero davvero imporre, dovrebbero lottare per portarlo avanti. E non è solo per le donne, è per tutta la società. In questo, secondo me, è la grande novità, diciamo, di questo periodo, di questo momento. Insomma, senza poi dimenticare che poi, appunto, le donne ci sono saldamente, si dice sempre che le donne ci sono poche nel mercato del lavoro, ma attenzione, noi siamo al 47%, ma perché abbiamo il 30% di donne nel sud, le donne nel centro-nord, come dire, sono alla media europea, le donne tra i 25 e i 44 anni, come dire, 75% sul mercato del lavoro, e l'80% delle donne laureate in tutta Italia, compreso il sud, sono occupate. Dunque le donne ci sono, ma non possono, come dire, in qualche modo, come dire, rapportarsi a questo modello, che però è un modello vecchio, finito, come dire, bisogna affrontare la novità di un nuovo modello, come dire, che le donne portano avanti. Roberta Cocco, responsabile dell'Associazione Futura al Femminile. Allora, lei ci ha parlato linea ADSL, capacità di poter accedere alla posta attraverso un telefonino, attraverso un computer, quindi poter lavorare da qualsiasi parte, e questo è quello che al quale voi tendete. Però io le chiedo, in Italia come siamo messi come rete telematica, come fornitori di servizi? Insomma, siamo sempre un po' indietro. Internet, alla fine, questa grandissima rete che ci unisce globalmente, in Italia è un po' più indietro, oppure si stanno facendo dei progressi, soprattutto per la linea wireless, che ci permette di collegarci senza fili? Sì, grazie di questa domanda. Io volevo però permettere una veloce precisazione. Quanto io dicevo prima, mi riferisco al fatto che le donne attraverso la tecnologia possono svolgere qualunque lavoro, quindi non importa dal livello del lavoro, dalla professione o dal settore di mercato in cui si è. Il supporto che può dare la tecnologia è un supporto assolutamente universale, quindi non è necessario che una donna scelga un tipo di lavoro che, per cui la tecnologia la abilita a farlo da casa, assolutamente no, cioè la vera conquista, la vera vittoria è proprio di non dover scegliere. Per quanto riguarda le opportunità di connessione, di wireless, di tecnologia, io credo che abbiamo fatto passi da gigante ultimamente e ormai non c'è più questo ostacolo. L'ostacolo purtroppo rimane ancora in una percentuale, e l'Istat ce l'ha detto pochi mesi fa, in una percentuale ancora troppo bassa di donne che utilizzano la tecnologia. Noi siamo ancora 10 punti in percentuale indietro agli uomini, e questo è un peccato, anche se viene quasi superato, addirittura quasi opposto, il dato dei giovani, perché le giovani ragazze, le giovani studentesse invece utilizzano la tecnologia per studio, per svago, per fare networking, eccetera, come i ragazzi, come i loro colleghi maschi, se non di più. Quindi certamente non possiamo nasconderci dietro l'ostacolo che l'Italia non sia pronta. Faccio un'ultima aggiunta, sono molto d'accordo con la dottoressa che ha appena parlato, se non erro la dottoressa Marina Piazza. Esatto, nel dire che noi dobbiamo veramente appropriarci di quello che ci spetta, scritta, facendolo anche sulla base di una assoluta parità. Quindi non è più il caso di fermarsi e non è più necessaria la scelta, che credo sia una cosa straordinaria. La possibilità di conciliare assolutamente la voglia di avere una famiglia, crescere dei figli o magari accudire le persone anziane, perché purtroppo gli aspetti sociali ci obbligano talvolta ad essere noi donne, no? Ad occuparci di anziani che hanno bisogno di aiuto, eccetera. Al tempo stesso possiamo continuare, se lo vogliamo, se lo desideriamo, a svolgere la nostra professione. E le tecnologie ci aiutano anche per controllare anche le persone anziane, no? Perché poi ci sono sempre più possibilità attraverso dei piccoli monitor, insomma ce ne sono parecchie. Noi ringraziamo Roberta Cocco e diciamo anche alle nostre radioascoltatrici che per saperne di più si può guardare Internet Futuro al Femminile, futuro chiocciola femminile. Allora, Franca Fossati, abbiamo sentito la possibilità di lavorare da casa, la possibilità di lavorare attraverso internet, le giovani che sanno maneggiare un computer come i giovani, quindi non è una questione sessuale quanto piuttosto di educazione, di istruzione. Che cosa manca? Che cosa ancora ci ostacola in questo lungo cammino verso l'emancipazione femminile? Ma no, ci sono tanti ostacoli, sono dentro di noi, credo, dentro ciascuna di noi. E poi comunque anch'io sono ottimista come le altre interlocutrici, però diciamo ancora non siamo riusciti a scalzare il modello maschile. Non so, chiunque sta nel mondo del lavoro sa che questa, per esempio, disponibilità di tempo senza regole aiuta spesso nella carriera, perché dato che la carriera spesso avviene per cooptazione di un gruppo, di una casta, che dovunque essa sia, la cooptazione spesso è casuale, non è legata solo ai propri meriti, è legata a dei meccanismi che per esempio sono legati a questo tempo infinito che gli uomini possono dedicare al lavoro a differenza delle donne. Cioè tipo una sera che c'è una cena di lavoro, arriva un giovane, quel giovane fa la sua figura, a quel punto viene chiamato dal padrone della fabbrica. Per esempio, la seconda cosa che oggi dobbiamo realisticamente tenere presente, anche se è vero che i dati dell'occupazione femminile sono quelli che ha detto Marina, è che questo periodo di crisi e quindi la situazione di moltissime giovani donne e anche uomini di lavoro precario messo continuamente in discussione, beh, insomma, sommato a tutto il resto, non è proprio così roseo il futuro che abbiamo davanti. Io credo che c'è un problema di costruire più reti, ecco, di mettersi più in reti, perché se ciascuno poi è da solo nei confronti del mondo del lavoro, è da sola, a maggior ragione, fa più fatica, diciamo. Quindi, insomma, più reti, però noi diciamo anche che l'Istat ha dato delle speranze perché la natalità sta finalmente di nuovo in crescita rispetto agli anni passati, quindi si cominciano di nuovo a fare dei bambini, e allora vuol dire che forse le donne riusciranno in questo titanico tentativo di avere una famiglia, avere un lavoro e seguire anche le proprie ispirazioni. Insomma, una vita comunque sempre molto più poliedrica di quella di un uomo. Cioè, no, c'è una cosa che hanno segnalato abbastanza i giornali in questo periodo che è interessante. Negli Stati Uniti, dove c'è questa crisi mostruosa, le aziende, le uniche nuove aziende, sono aziende fatte da donne, chiamate le mamme, donne, come dire, imprenditrici mamme, che si inventano tipo società di servizi, cose per l'alimentazione, si diventano delle cooperative, si diventano imprenditrici che non solo consentano loro di tenere in piedi anche il rapporto familiare, ma che in questa situazione sono forse l'unica fonte di reddito per famiglie dove gli uomini perdono il lavoro. Come al solito la nostra fantasia riesce a farci uscire anche dalla crisi. La quota rosa. Fred in bicicletta, Freddy con la faccia sporca, Freddy con le dita dentro la torta, Freddy felice, Freddy bambino. Perché così lui resta bambino e resta felice, come nelle foto. Quando è morto, ero anch'io un bambino, proprio come lui. Ma i miei ricordi non sono come i sorrisi nelle foto. Sai, l'altra notte l'ho sognato. Non è la prima volta che mi capita. Ed è sempre lo stesso sogno. Freddy mi guarda e ride. Io gli chiedo perché ride, ma lui non risponde. Allora io urlo chiamandolo per nome, gli chiedo perché diavolo ride. Ma lui niente, continua a ridere e basta. Io mi sveglio tutto sudato. Mi dico che se ride è perché sta bene dove sta. Lui vuole dirmelo che sta bene. Così la paura mi passa e il sogno svanisce. Ti ricordi il fucile di legno che ci regalò lo zio? Morivamo a turno un sacco di volte al giorno. Una volta per un colpo alla schiena, un'altra per un duello. E ammazzavamo tutta la famiglia col nostro fucile. Poi tutto finiva e tornavamo a vivere. Quello che avete sentito è un brano di Deserto Grigio della regista Maria Arena e che abbiamo con noi ospite. Buongiorno, ma soprattutto parleremo sia con Maria Arena sia con Patrizia Rappazzo e Stefania Scattina di un festival, Film Festival Internazionale di Regia al Femminile. Subito, Patrizia Rappazzo, direttrice artistica del festival, che cosa vuol dire un festival di regia al femminile? Cortometraggi, lungometraggi, di che cosa vi occupate? Allora, noi quest'anno inauguriamo la 16ª edizione, il Festival Regia Femminile, ma apre anche uno spazio alla regia maschile. Questa è una scelta precisa perché ci piace entrare in relazione e in confronto anche con l'universo maschile. Questa è sicuramente una premessa. Naturalmente tutte le sezioni competitive sono esclusivamente a regia femminile, proprio per dare spazio e visibilità a lavori di cineaste a livello internazionale, ma anche con un taglio fortemente italiano, a cineaste che nella maggior parte dei casi non trovano distribuzione e che spesso non vengono neanche ospitate nelle sale. Per cui il nostro è una vetrina proprio per parlare di donne, di cinema anche sommerso, di problemi, ma anche di quella che è la cronaca quotidiana. Infatti il tema di quest'anno è la rivoluzione digitale e le nuove culture, dove i linguaggi artistici del cinema, ma di tutte le altre arti, si incrociano con le contaminazioni delle nuove tecnologie. Per cui è un festival che prende spunto anche dall'anno europeo della creatività e dell'innovazione e che attraversa naturalmente la storia contemporanea. L'inaugurazione Porta Venezia, invece la programmazione cinematografica dal 3 all'8 marzo presso lo spazio Oberdan e Gnomo Milano Cinema. Esatto. Da che ora a che ora, come si possono vedere questi film, sono documentari, cosa sono, Patrizia? Allora, noi abbiamo tre sezioni competitive, una dedicata al lungometraggio internazionale con nomi anche di spicco, cioè sicuramente il nostro pubblico che ci segue da anni conoscerà anche dei nomi particolarmente significativi, come quello per esempio della Naomi Kawase, che è un regista giapponese, gran premio alla giuria a Cannes 2007, ma anche Samira Makhmalbaf, che è la figlia del grande regista iraniano. Sono dei film particolari e sicuramente da non perdere, questo per quanto riguarda la parte internazionale e lungometraggi. Poi abbiamo una sezione dedicata al documentario internazionale con un titolo molto significativo perché è appena passato attraverso la candidatura degli Oscar, The Betrayal, ed è la storia di una comunità del Laos che si è insediata negli Stati Uniti. Abbiamo anche un concorso dedicato ai corti e mediometraggi italiani, tra cui appunto quello di cui avevate parlato, Deserto Rosso di Maria Arena. Sono dei lavori molto significativi, particolari, che fanno un po' la geografia del nostro paese, naturalmente da un punto di vista cinematografico, ma anche di uno spazio internazionale. Abbiamo anche delle sezioni dedicate quest'anno ai diritti umani, all'Expo, e anche degli eventi dedicati, per esempio, a quello che è l'incrocio tra le culture con una lettura scenica a cura di Livia Grossi che ha scelto di raccontare la storia delle vergini giurate albanesi che hanno rifiutato la loro femminilità per acquisire dei diritti di parità agli uomini. Questa sarà una quindi anche scenica. Dei film di denuncia, insomma, anche dei momenti di denuncia della condizione femminile sia nel mondo che in Italia. Il nostro festival prende le distanze da posizioni politiche, non vogliamo far politica, però sicuramente i temi spesso incrociano proprio quella che è la condizione della donna a livello internazionale. D'altro canto, da un festival che ha una tradizione come la nostra non ci si può aspettare diversamente. Insomma, è anche un modo per fare politica, questo è politica in modo più alto. Deserto grigio, non rosso, per precisare, no? Deserto rosso era quello di Antognoni. Maria Arena, perché ha girato questo film e di che cosa parla? Ecco, è un film, è un cortometraggio prodotto l'anno scorso che è stato già selezionato a Locarno, alla sezione sulla sperimentazione dei nuovi linguaggi, Play Forward. E poi è stato anche in concorso a Imola, al Festival di Imola. È un lavoro dedicato appunto alla verità, diciamo, è un lavoro sulla verità che poi alla fine nell'incipit c'è questa citazione che la verità, il colore della verità è grigio, no? Qual è il colore della verità? E questa è proprio la tematica di questo corto, una confezione di un fatto avvenuto durante l'infanzia e il personaggio protagonista è sdoppiato con la recitazione di due attori che sono appunto Eva Robbins e Dani Greggio, che fanno lo stesso ruolo su questa, diciamo, elaborazione di questa verità. Volevo aggiungere anche ecco, qual è questa verità? Ce lo puoi accennare? La verità è diciamo legata a una tragedia, diciamo, avvenuta durante l'infanzia e che quindi emerge piano piano durante questa confezione. E quindi questo doppio ruolo è anche giocato proprio su questo riuscire a dire, a confessare o non riuscire a confessare, no? Proprio per questo, diciamo, la personalità si scinde per la difficoltà di dire questa verità. Perché lei ha scelto questo tema, che poi è un tema maschile, essendo lei una donna? Un tema maschile. Il tema della confessione no, è un tema secondo no, me che però non ha. I suoi protagonisti sono maschili, no? In questo caso, diciamo, Eva Robbins è più che una protagonista maschile, è un androgino. Dell'ambiguità per eccellenza. E diciamo che quando io ho fatto questo lavoro in collaborazione con Saverio Palatella, che ha prodotto il film, ma ha anche lavorato, diciamo, alla gestazione di questo lavoro, e fu lui proprio a indicare Eva come personaggio ambiguo, perché proprio questa confessione è tutta giocata sull'ambiguità, no? Per cui sì, io sono una regista donna, ma comunque gli argomenti che tratto sono argomenti che prescindono anche dal genere, ecco, quindi non è che è soltanto questo poi il discorso. Volevo aggiungere che io all'interno del festival, appunto, poco fa Patrizia citava l'evento sulle vergini giurate albanesi, ecco, quell'evento lì che è appunto un'idea di Livia Grossi per questo festival, collaboro anche all'interno di quell'evento perché su queste vergini giurate diciamo Livia ha coinvolto anche Laura Facchi, che è una scrittrice che ha scritto nel 2002 un romanzo che è Il megafono di Dio, proprio sullo stesso argomento, e io insieme a Laura Facchi abbiamo scritto una sceneggiatura sullo stesso argomento. Quindi diciamo il centro sono queste vergini giurate che appunto sono delle donne che hanno deciso di vestirsi da uomo per avere potere decisionale in una società prettamente, diciamo, maschilista. Ambientato in che epoca? Ecco, allora diciamo che c'è un reportage, cioè il testo di Laura Facchi è del 2003 ed è si basa su dei reportage che lei fa alla fine degli anni 90 e Livia Grossi ha fatto un'intervista anche lei, appunto un reportage su una vergine giurata, anche lei penso all'inizio degli anni del 2000, e ci sono delle fotografie che accompagnano, diciamo, il tutto, che fanno parte della fine degli anni 90 che sono delle foto di Alex Maioli, quindi diciamo siamo alle porte del nuovo millennio con una società che ancora faticava. Ora vabbè, le cose sono un po' cambiate, anche se sull'Albania il discorso è diciamo una differenza, cioè tra la città e poi le montagne, le comunità montane rimangono ancora legate a tradizioni arcaiche, magari sulla città invece c'è un discorso di modernità che già va avanti un po' più velocemente, diciamo. Ecco, quanto pesa la religione in Albania? Diciamo la maggioranza è musulmana e dove la donna comunque è sempre discriminata rispetto ad altre regioni. Ma quanto, diciamo che... Quanto pesa? Più che altro lì il discorso della religione è un po' complesso, perché fino a tardi, insomma, fino alla fine del Novecento, fino agli anni Ottanta, c'è stato il regime comunista di Ambrogia, quindi insomma la religione era sommersa o segreta, no? Quindi non è tanto quello quanto proprio il codice arcaico, magari del Canun, che è un codice dove la donna ha un ruolo veramente marginale nella società, per cui è un po' più questo codice arcaico che ancora permane in alcune zone limitrofe dell'Albania piuttosto che il discorso religioso, ecco, che magari invece è una conquista o una riappropriazione più recente. Maria Arena, qual è la difficoltà per una donna oggi di fare la regista in Italia? Beh, ha mai preso, non so, ha mai dato una bella microfonata a un suo collaboratore perché non rispondeva ai suoi ordini, no? Ma guardi, diciamo che il problema della donna poi sia nel cinema che altrove è poi il problema di dover gestire poi il doppio ruolo di lavorare e poi magari essere anche madre, no? Questa è ancora una cosa che si fatica, no? A gestire sia dal punto di vista individuale, no? Di chi poi non nega il proprio genere, quindi va avanti anche con i discorsi dell'esistenza e della maternità e che comunque nello stesso tempo vuole tenere il passo. Tuttavia poi c'è un feedback a volte, no? Su questa questione che si deve affibbiare un'etichetta e madre di famiglia piuttosto che artista, no? C'è sempre un po' questo problema. Poi, ma credo che adesso comunque le cose siano un po' migliorate, ecco, quindi io riesco a gestire il doppio ruolo. Essere capita dall'altra parte è sempre una scommessa, diciamo. E dirigere un uomo è difficile? Dirigere un uomo? Allora no, assolutamente no, io non ho mai avuto problemi a riguardo e soprattutto dirigere Eva Robbins è stato invece proprio straordinario, perché è una persona di una grande ironia e di una grande disponibilità dalla quale io ho imparato anche molto, devo dire. Quindi ricordiamo Deserto Grigio nell'ambito della rassegna Sguardi Altrove Film Festival. La quota rosa. Torniamo a parlare di cinema al femminile, Film Festival Internazionale di Regia al Femminile. Stefania Scattina, curatrice dell'evento e responsabile della parte espositiva. Ci aveva detto anche Patrizia Rappazzo, appunto, che non solo di cinema vi occupate in questa mostra, ma anche di nuove tecnologie? Sì, buongiorno. Buongiorno. Curo assieme a Patrizia Rappazzo la parte espositiva e assieme a lei abbiamo dedicato del tempo appunto per la selezione. La selezione che, come la parte cinematografica, ha come elementi non solo gli apporti femminili, ma abbiamo anche delle figure maschili, quindi abbiamo anche degli artisti a sguardo maschile. Sono 12 tasselli all'interno di questa sezione, tra cui in questi 12 tasselli abbiamo tre parti abbastanza importanti, sono tre tasselli molto importanti, uno che abbraccia il tema dell'Expo, e all'interno di questo tassello ci sono delle figure importanti come la Marina Ballo Charmé, Pierpaolo De Angelis, Riccardo Bucci. È un lavoro di due giovanissime ragazze che sono state da poco a Barcellona, dove hanno vinto anche dei premi, su un bellissimo lavoro che è con la voce dell'abitare, l'abitare all'interno delle macchine abbandonate. Un altro tassello molto importante quest'anno è stato dedicato all'arte contemporanea al femminile, rappresentata dalle artistesse, in tutto sono 5, curate da Ferruccio Giromini, che è un critico d'arte abbastanza famoso nel campo dell'arte italiana. Un altro tassello importante quest'anno, per noi è una grossissima novità, è una video installazione a cura di Matteo Lucchetti, Isabella Bordoni, è una performer, un'artista visiva che viene dal campo del teatro, e qui domani sera lei stessa sarà nel nostro spazio e curerà una performance personale dove porterà un contributo acustico alla sua installazione, domani sera alle 20 alla Casa del Pane. Un'altra Insomma, lei quello che ci sta dicendo è che chi va in questi giorni allo spazio Oberdan e Gnomo Milano Cinema non trova solo il cinema, ma trova anche un intrattenimento visivo, sì. Trova anche una mostra di arti figurative, insomma trova uno spazio che poliedrico, dove fare un'arte al femminile ma molto molto diversa l'una dall'altra. Esattamente, il nostro obiettivo è anche la diversità delle forme artistiche. Ho capito. Patrizia Rappazzo, direttrice artistica del festival, voi avete scelto consapevolmente la settimana in cui si celebra il giorno di lotta e di commemorazione femminile, vale a dire l'8 marzo? Allora, noi cerchiamo ogni anno di intercettare questa giornata, perché naturalmente per noi è un giorno significativo. Come dicevo prima, non è un giorno di lotta, non ci interessa lottare, ci interessa semplicemente mostrare la creatività delle donne. L'8 marzo infatti sarà dedicata a un incontro molto importante sulla produzione italiana, sulla produzione al femminile in particolare, con un incontro con Minni Ferrara, che è una produttrice milanese, che incrocerà Maria Grazia Cusinotta, l'attrice, fotomodella, ma anche oggi sceneggiatrice e produttrice. Maria Cusinotta sarà tra l'altro anche in sala la sera, le assegneremo un premio che si chiama il Premio alle Forme del Cinema, proprio dedicato a quelle figure che nel contesto cinematografico si muovono su linguaggi differenti. E chiaramente Maria Grazia Cusinotta è uno degli esempi più significativi di questo oggi. Allora, noi ringraziamo il Film Festival Internazionale di Regia al Femminile e le organizzatrici del Film Festival Internazionale di Regia al Femminile. Lo ricordiamo, dal 3 all'8 marzo presso lo spazio Oberdan e Gnomo Milano Cinema. E ci dedichiamo in questi ultimi pochi minuti che ci rimangono a un evento un po' particolare. C'è ancora uno spicchio di carnevale in questa nostra nazione, anche se sappiamo che mercoledì scorso sono state le ceneri, cioè il mercoledì delle ceneri, tradizionalmente sappiamo il carnevale si chiude con Martedì Grasso e si apre la quaresima con il mercoledì delle ceneri, però sabato, per chi è ancora un po' in spirito carnevalizio diremo, anche se questa quaresima sembra già stata preannunciata da una quaresima economica attraverso la crisi che non è delle migliori, sembra ancora che Viareggio festeggi il carnevale. Eleonora Francioni è una giovane carrista viareggina. Che cosa vuol dire essere carrista e che cosa ha ritratto sul suo carro che sfilerà oggi? Salve a tutti innanzitutto. Sì, una giovane carrista debuttante il primo anno nella seconda Quanti categoria. Anni ha? 30 anni. E che 30. Cosa vuol dire essere carrista? Cosa vuol dire? Innanzitutto ci vuole una grande passione, come più o meno per tutti i mestieri. Questo è un mestiere un po' molto particolare, perché si lavora per far divertire le persone in un piccolo periodo dell'anno. Ed essere carretti a 30 anni e donne non è semplice, perché è un lavoro molto duro, si sta molto al freddo, si lavora 13 ore al giorno durante il periodo pre-carnevalizio, poi insomma è un duro lavoro che però viene tutto compensato dall'emozione di quando si sfila sul corso a Viareggio. Poi il carnevale di Viareggio è il carnevale più bello d'Italia, il più famoso, e quindi per me è sempre un onore partecipare. Senta, lei ci può spiegare perché il carnevale di Viareggio si protrae anche dopo la quaresima? Ma perché Viareggio vive di carnevale, sono più di 136 anni che c'è il carnevale a Viareggio, e quindi diciamo che proprio tutti i viareggini stessi vivono del carnevale e cercano di protrarre il più a lungo possibile questo periodo. Cioè si protrae per altri 3-4 giorni, per un altro sabato, vi regalate un altro sabato. La domenica è l'ultimo giorno. Ah, la domenica, quindi domani. Sì. Allora, Eleonora Francioni, che cosa c'è sul suo carro? È un carro di satira politica che vede protagonista il popolo italiano, che è messo come alla berlina dai politici, i nostri nuovi ministri, che arrostiscono alimentando la brace con dei soffietti questo uomo nudo che appunto rappresenta il popolo italiano, che gira come un girarrosto. Solo il governo non ha fatto figure dell'opposizione, non ha fatto un carro bipartisan. Sì, nuovi volti della politica, Carfagna, Brunetta, Calderoli, vabbè, anche se non è proprio nuovo. Un carro però un pochino di una parte politica, no? Diciamo che si chiama appunto dalla padella alla brace, cambia la sinistra e la destra si alternano, però alla fine diciamo che non, la scossa di politica voleva dare all'Italia non c'è stata, quindi abbiamo rimesso questi nuovi politici, però è sempre alla fine dalla padella alla brace, non è cambiato, è cambiato poco diciamo. Un'ultima domanda, mi scusi Eleonora? Sì. Che cosa immaginerà per il prossimo anno? Dopo che i politici hanno arrostito il popolo italiano, le è già venuta in mente un'idea? Pensa di lavorare su qualcosa? Vabbè, idee ce ne sono tante, ma è tutto rigorosamente top secret, e poi si aspetta giugno, luglio, quando inizieremo a presentare i nostri progetti per il carnevale. Che voi quindi presentate ancora al comune, il comune ve li approva? Sì, c'è una fondazione, la fondazione del carnevale, noi presentiamo i progetti alla fondazione, sono più o meno 28 ditte artigiane che lavorano per il carnevale di Viareggio, tra mascherate in gruppo, carri grandi, carri piccoli. Quindi voi a giugno presentate il progetto per poi sfilare a gennaio-febbraio? Sì, sì, sì. Quanto ci si mette a costruire un carro? Ma si inizia intorno ai primi di settembre, i primi di ottobre, quindi 4-5 mesi di duro lavoro. E poi tutto quanto finisce con la fine del carnevale? Finisce con la fine del carnevale, anche se per noi non finisce mai, perché si pensa subito al carnevale dell'anno prossimo, poi ci sono altri eventi collaterali, quindi insomma diciamo che viviamo sempre per il carnevale. Ma almeno ci portate un po' di gioia appunto in questa quaresima che è anche segnata dalla crisi economica. Io ringrazio le mie ospiti, ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.